Anche gli altri cambiano. Leggo nella Bibbia in Filemone capitolo 1 versetti 10 a 11 e versetti 15 a 21. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quello che ti chiedo. Se ci lasciamo in malo modo con qualcuno, magari dopo un litigio, e poi non lo incontriamo più per tanto tempo, normalmente conserviamo un pessimo ricordo di quella persona, soprattutto se crediamo che quella persona si sia comportata in maniera scorretta nei nostri confronti. Filemone era stato probabilmente molto deluso da Onesimo nel passato. Onesimo era stato schiavo di Filemone, probabilmente era scappato. Non sarebbe stato facile accoglierlo come Paolo gli stava chiedendo. Ma Filemone doveva considerare che anche Onesimo era cambiato. Filemone in passato era stato trasformato dal Vangelo predicato da Paolo e in questo senso gli era debitore per la sua stessa vita. Come Filemone a suo tempo era cambiato, anche Onesimo non era più lo stesso. Filemone, riflettendo sul proprio debito nei confronti di Cristo e in qualche misura nei confronti di Paolo, doveva essere pronto a condonare il debito di Onesimo. Onesimo era ormai un fratello che andava accolto come si sarebbe accolto Paolo stesso. Paolo utilizzò un gioco di parole. Il nome Onesimo nella lingua greca significa utile, profittevole. Con questo gioco di parole fece capire a Filemone che Onesimo non doveva più essere valutato per quello che era stato, ma per quello che era diventato in Cristo. Onesimo, in passato, nonostante il suo nome, si era mostrato inutile, essendo un servo disubbidiente nei confronti di Filemone, ma dopo la conversione era diventato utile di nome e di fatto. Onesimo aveva mostrato la genuinità della propria fede, servendo Paolo nella sua prigionia. Paolo ne era così convinto da essere pronto a garantire per lui e a saldare eventuali conti in sospeso invece sua. Paolo fu molto pungente nell'usare l'espressione «Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore». Fino a quel momento, infatti, Filemone non si era già dimostrato utile nell'opera? Ma certo! Però Paolo gli stava facendo capire che come Onesimo era diventato utile, anche lui poteva fare un salto di qualità ulteriore. Non conosciamo come sono andate le cose dopo l'invio di questa lettera, ma Paolo aveva la certezza che Filemone avrebbe ricevuto la sua esortazione e avrebbe fatto meglio di quanto richiesto. Quando incontriamo qualcuno che ci ha fatto dei torti in passato, abbiamo sempre il dubbio che non sia cambiato niente e abbiamo paura che la nostra fiducia sia ancora mal riposta. A volte potrebbe essere così. Ma ricordiamoci che come Cristo è in grado di cambiare la nostra vita, è perfettamente in grado di trasformare la vita di coloro che ci hanno offeso. Dobbiamo essere pronti a valutare le persone per ciò che sono oggi, non per quello che sono state ieri.